Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Martedì 3 agosto, buongiorno ad Antonella Cortese a tutti e a tutti, in particolare alle persone ristrette delle case circondariali dell'Emilia Romagna e della Dozza ovviamente. E bentornati a Liberi Dentro ed Radio TV in onda tutti i giorni su Radio Città Fuggico, Teletricolore e Lapida TV. Sapete che questo è il programma che fa da ponte tra carcere e città e noi speriamo che questo ponte diventi sempre più solido. Salutiamo anche Ignazio De Francesco, volontario AVOC, che sarà con me e Caterina a condurre la trasmissione per tutto il mese di agosto. Buongiorno Ignazio. Buongiorno, buongiorno a tutti quelli che ci stanno ascoltando la grande fatica del caldo di agosto. Voi non vi immaginate che ascoltate da fuori cosa vuol dire stare in una scatola di cemento in questo mese. Quindi è ancora più importante che ci siamo qui a farvi compagnia. Ignazio, ringraziamo anche tutti quelli che ci hanno permesso di stare qui in compagnia, perché abbiamo fatto un crowdfunding, una campagna che è andata molto bene e che grazie alle donazioni dei tanti generosi donatori, oggi siamo qui a far compagnia ai nostri amici in carcere. Quindi a questo punto io ti direi di che cosa parliamo oggi, Ignazio. So che a Frosinone si inaugura la sala teatro del carcere con il Macbeth, portato in scena dai detenuti, giusto? Così. Il tema di questo primo intervento di oggi mio è il teatro. È un progetto bellissimo del carcere di Frosinone, sezione alta sicurezza, cui in due anni hanno partecipato una serie di laboratori teatrali organizzati dall'associazione culturale Corinem Invisibili Teatro. E hanno fatto non teatruccio, diciamo qualunque, ma Shakespeare, il Macbeth. E quindi mi sembra una cosa di straordinaria importanza, e questo devo dire proprio grazie alle persone che io personalmente conosco e ho conosciuto in carcere, le quali mi hanno detto, soprattutto al femminile, che il teatro è uno strumento di una importanza straordinaria per le persone detenute in carcere. E quindi anche il nostro impegno con Teatro dell'Argine, ricordate, o con Cantieri Meticci, con Paolo Billi, è proprio su questa frontiera. Il teatro dà vita alle persone in carcere. Infatti siamo molto fortunati, Ignazio, ad avere nel nostro gruppo almeno tre teatri, perché veramente fanno un lavoro meraviglioso. Ti faccio una domanda. Secondo te c'è stata soddisfazione per il lavoro fatto da parte della Casa Circondariale? Ma sì, quando guardo così un po' le notizie di cronaca, perché poi bisognerebbe sentire sul campo, le cose hanno sempre il loro rovescio, sicuramente ci saranno delle critiche, ci saranno delle persone che hanno delle cose da dire. Comunque, se noi vediamo quello che dice la direttrice Teresa Mascolo, lei si è detta molto felice di inaugurare la sala teatro realizzata anche con i fondi della Regione Lazio. Quindi il carcere ha anche un suo spazio fisico importante. Noi sappiamo quanto è difficile spesso in carcere trovare spazi che siano adeguati per qualsiasi attività. Quindi il fatto che si apra una sala adeguata alle attività teatrali è molto importante. Vorrei aggiungere una cosa che mi ha detto una volta una detenuta, tra poco leggeremo anche dei testi che ci stanno arrivando proprio su questo tema. Mi ha detto: per me il teatro è importante perché mi consente, interpretando certi personaggi che non sono io, però anche di riflettere su me stessa e quindi di guardarmi da un altro punto di vista e guardare anche il mondo da un altro punto di vista. E questo è importantissimo in una situazione come quella del carcere, dove una persona poi è afferrata tutta la giornata dal suo problema, dai suoi pensieri. Sappiamo che la cella più stretta è quella della mente, molto più forte della cella fisica. Quindi il teatro come esperienza di uscita dalla cella dei pensieri. Che è un po', diciamo, la specialità dell'arte, no? Della cultura, cioè entriamo in un altro mondo, lo facciamo tutti, a volte riusciamo addirittura a salvarci. Comunque, restiamo un po' nel mondo dell'arte e dici un po' che cosa ci vuoi far ascoltare, Ignazio. Oggi mi sa che il pezzo l'hai scelto tu. Sì, io vado su Fairuz. Fairuz è la cantante libanese. Quando io ero a Damasco, ecco, sui taxi, sugli autobus, alla mattina c'era sempre Fairuz. Si dice ci si sveglia nel mondo arabo con Fairuz e si va a letto con un'altra cantante, Umm Kulthum. E quindi ascoltiamo Fairuz, la sua voce dolcissima, che canta Habbeitak, io ti ho amato, anche ti amo, ti amerò. Secondo come si può intendere questo verbo in arabo. E, faccio una dedica, se ci stanno ascoltando in questo momento, la dedico a Igli e Fabrizio. Allora, ascoltiamo Fairuz e un caro saluto a Igli e Fabrizio. A voi. أنا حبيتك حبيتك أنا حبيتك بالصيف أنا حبيتك حبيتك ما أنا حبيتك Dopo la meravigliosa Fairuz, la sua voce fantastica, parliamo del tema di questo periodo, e cioè le Olimpiadi. Le Olimpiadi sono in pieno corso e vorrei parlarvi di un atleta veramente speciale, Ibrahim Al-Hussein. Perché questa è la storia di un vero atleta, un ragazzo che ha saputo rispondere alla difficoltà della vita provando ad affrontarle con tutti i mezzi possibili, in tutti i modi. E come sapete, lo sport, tra le sue caratteristiche principali, ci insegna che possiamo conseguire i nostri obiettivi con il duro lavoro, la giusta motivazione, il sostegno degli altri, perché alla fine, non mi stancherò mai di dirlo, non si vince mai da soli. Si vince con il lavoro di squadra, anche negli sport individuali, se ci pensate, nell'atletica, nel tennis, non vince mai la sola persona. Però torniamo a Ibrahim al-Hussein, che fin da piccolo sognava di partecipare alle Olimpiadi. Figlio di un istruttore di nuoto, cominciò a nuotare a 5 anni nel fiume Eufrate, che scorreva attraverso la sua città di origine, Deir ez-Zor, nel est della Siria. E quando al-Hussein aveva 23 anni, in Siria purtroppo scoppiò la rivoluzione, che degenerò in poco tempo in una guerra civile. La sua famiglia fuggì via subito, ma lui rimase nel paese. E nel 2012, mentre soccorreva un amico ferito, fu colpito dall'esplosione di una bomba alla gamba destra, che dovette poi essere amputata dal ginocchio in giù. 2 anni dopo attraversò illegalmente il confine tra Siria e Turchia su una sedia a rotelle e nel febbraio del 2014 raggiunse la Grecia a bordo di una barca di fortuna con altre 80 persone. Arrivato ad Atene, entrò in contatto con un medico greco che gli procurò una protesi nel 2015 e ottenne l'asilo. Qui siamo a una tragedia, ecco, oltretutto essendo stato in Siria ho conosciuto tante di queste storie simili e quindi mi chiedo come questa tragedia si sia trasformata in favola, un grande campione è nato da queste ceneri. Sì, Ignazio, direi un grande campione, un grande uomo a questo punto, perché Lui, dopo aver trovato lavoro e aver cominciato a rimettere insieme i pezzi della sua vita, tornò in piscina. Vinse varie competizioni per atleti con disabilità in Grecia e poi fu scelto dal Comitato Olimpico Greco per portare la torcia dei giochi di Rio de Janeiro del 2016 attraverso il campo profughi Eleonas ad Atene. Il Comitato Paralimpico Internazionale gli offrì la possibilità di far parte della prima squadra di rifugiati alle Olimpiadi di Rio e di sventolare la sua bandiera nello storico Stadio Maracanã, famosissimo in tutto il mondo. E oggi, insieme ad altri 5 atleti, rappresenta la squadra paralimpica dei rifugiati alle Olimpiadi di Tokyo. Bellissimo risultato. Però ti voglio leggere quello che dice. Perché lui dice: non nuoto per me stesso, ci sono 80 milioni di profughi al mondo, nuoto per loro. E tra l'altro ha anche rifiutato varie offerte di gareggiare per la Siria, dice che non tornerà nel suo paese finché la guerra non sarà finita. E, in più aggiunge: voglio inviare un messaggio a tutti i rifugiati disabili, in particolare a quelli che ho visto in Turchia e in Siria, perché dovrebbero sapere che niente è impossibile. Ecco, è molto bello questo, ma mi viene da dire, cioè lui ha avuto questo percorso semplicemente perché aveva avuto questo handicap, ecco, questo trauma fortissimo, o c'è qualche cosa che si apre anche per i rifugiati? Sì, altro che per la seconda volta dopo Rio de Janeiro del 2016 alle Olimpiadi ci sarà il team rifugiati del CIO che conta ben 29 rappresentanti, una squadra composta da atleti che prenderanno parte a tante discipline diverse, atletica, judo, taekwondo, pugilato, nuoto, ciclismo su strada, canoa, e dal sollevamento, badminton, insomma, Ignazio, fanno giustamente un po' di tutto quello che sono poi le loro specialità. Ti dico anche però da dove provengono, dalla Siria, Iran, Sud Sudan, Afghanistan, Iraq, Eritrea, Camerun, Repubblica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, Sudan e Venezuela. Cosa interessante è che tra gli allenatori c'è anche Niccolò Campriani, straordinario campione italiano che ha vinto 4 medaglie alle Olimpiadi nel tiro a segno, 3 d'oro a Londra e a Rio. In più, ultima cosa, tra gli atleti in gara c'è la nuotatrice Yusra Mardini, ambasciatrice dell'Alto Commissariato per i Rifugiati, che era presente già a Rio. La guerra in Siria obbligò la sua famiglia a scappare da Damasco a Berlino. E una fuga che li portò ad attraversare, tra l'altro, illegalmente 7 paesi diversi prima di arrivare in Germania. E 5 anni fa gareggiò nei Giochi di Rio. Allora, adesso lanciamo un brano musicale che io vorrei dedicarlo, poi di tu quello come vuoi, ma anche alla Siria, sto pensando anche a padre Paolo Dall'Oglio, la Siria libera, democratica, che voleva svilupparsi come paese che dà diritti a tutti e ha ingoiato un intero popolo. Che cosa possiamo dedicare per tutti loro? Allora, dedichiamo a tutti loro una canzone del 2001 di Tiziano Ferro che si chiama proprio L'Olimpiade. Ascoltiamola. Però batti spesso il passo per lava che tirerà e se c'è tu non vai oltre. Ma ripetiti ogni giorno faccio tutto quel che posso. Sono un vero osso, duro, asso, grosso. Ti senti meglio adesso? Mettiti in forza e guarda su. Taci dentro tu di più. Parte la tua gara più ardita. La partita va giocata con fatica infinita. Fatti forza, è la vita, sai, che ti sfida. Ti invita a duellare con lei. Forse vinci e mollerai. Magari invece riderai. E sbagli a fuochi, ma poi riuscirai. In questa grande Olimpiade di me. La distanza che separa i tuoi sogni dalla realtà, brucia la specie, va, sgomma. Passa a destra, occhio in curva, si rischia, questo si sa. Molto facile il testa, coda. Ma tu spingi l'acceleratore, tutto fino in fondo. Tu sei un vero osso, duro, asso, grosso. Cazza, più non posso, presto. E parti in quarta, adesso. Fatti forza, è la vita, sai, che ti sfida. Ti invita a duellare con lei. Forse vinci e mollerai. Magari invece riderai e sbagli a fuochi, ma poi riuscirai in questa grande Olimpiade di me, di te, nell'anima. Hey, muoio ma non perdo, lo stai promettendo. Batti il pugno sopra il petto, giura urlando. Mi alzo e non mi arrendo, riderai vincendo. vita sai che ti sfida, ti invita a duellare con lei. Forse vinci e mollerai, magari invece riderai. E sbagli e falli ma poi riuscirai in questa grande olimpiade di me. È la vita, sai, che ti sfida, ti invita a duellare con lei. Forse vinci e mollerai, magari invece riderai. E sbagli e falli ma poi riuscirai in questa grande olimpiade di me. Lasciamo Tiziano Ferro e diamo la parola alla nostra Caterina Bombarda, che intervista l'ispettore capo della Polizia Penitenziaria, Antonio Molinaro. A voi. Ciao a tutti, siamo qui nella Casa Circondariale di Bologna e oggi siamo insieme ad Antonio Molinaro per l'intervista per la pillola insieme ad Asso Città di Bologna per Liberi Dentro Durati. Sì, parleremo con appunto l'ispettore Antonio Molinaro del suo lavoro, del suo ruolo all'interno della Casa Circondariale di Bologna. Sarà un'intervista molto ricca che vi accompagnerà per diverse pillole per l'appunto costruite dalla Città di Bologna. Ascoltatela, è molto interessante. Via con la pillola. La comunità del carcere ospita tante persone, chi vi entra perché è costretto e chi vi entra per lavoro o per mandato sociale. Tra le persone che entrano in carcere per lavoro, la figura dell'ispettore, come lei, racchiude, a mio parere, una duplice funzione, che è quella di controllo e osservazione. Negli ultimi decenni la posizione dell'osservazione è diventata sempre più significativa, anche ai fini di una relazione di sintesi sulla persona detenuta e quindi nella previsione di un percorso trattamentale in evoluzione. E quindi intanto, dottor Molinaro, le chiedo se ci può raccontare il suo percorso professionale e cosa l'ha portata fin qui. Io mi sono laureato in giurisprudenza nel 97 qui a Bologna e subito dopo essermi laureato avevo una grossa necessità di rendermi indipendente dal punto di vista economico. Quindi ho iniziato a fare vari concorsi pubblici e dopo essermi anche abilitato avvocato, che però mi ero reso conto che non mi piaceva fare l'avvocato, ed era uscito appunto un concorso per vice ispettore nella Polizia Penitenziaria e quindi ho fatto la domanda. Questo concorso è durato quasi 4 anni e poi alla fine ho vinto il concorso da vice ispettore. Nel frattempo avevo vinto anche altri concorsi, però poi quando ho iniziato a fare il corso di formazione e sono iniziato a far parte dell'amministrazione penitenziaria, mi sono reso conto che in realtà questo lavoro mi piaceva moltissimo. E quindi se inizialmente è nato, mi sono trovato a fare questo lavoro per caso, successivamente è stato un lavoro che l'ho scelto, cioè l'ho voluto fare perché avevo anche altre appunto possibilità di scelta e quindi è un lavoro che poi ho voluto fare. Io, dottor Molinaro, invece volevo chiederle se ci può spiegare in sintesi qual è il ruolo dell'ispettore e più in generale dell'agente penitenziario all'interno della sfera carcere. Allora, che il Corpo di Polizia Penitenziaria è nato nel 90, è stato istituito con la legge 395 del 90 che ha preso il posto del disciolto Corpo degli Agenti di Custodia. Tutt'oggi molte persone ancora continuano a chiamarci agenti di custodia, guardie carcerarie, eccetera, eccetera, però dal 90 esiste il Corpo di Polizia Penitenziaria, che è una forza di polizia al pari delle altre forze di polizia. È un corpo civile con un'organizzazione militare ed è, appunto, nell'ambito del Corpo di Polizia Penitenziaria vi sono diversi ruoli, come anche succede nella Polizia di Stato. Quindi abbiamo il ruolo degli agenti assistenti, il ruolo dei sovrintendenti, poi c'è il ruolo degli ispettori e poi è stato istituito nel 2002 anche il ruolo dei commissari. ed abbiamo anche i dirigenti di polizia penitenziaria adesso attualmente. Ci fermiamo per ascoltare un po' di musica, ci vediamo dopo. Quando ho fatto io questo concorso, nel 2001, la figura dell'ispettore era la figura apicale, perché appunto i commissari sono stati istituiti poi nel 2002. Quindi c'erano molti ispettori che facevano i comandanti degli istituti penitenziari. E diciamo che appunto, mentre il ruolo degli agenti assistenti è un ruolo che ha delle mansioni esecutive, quindi diciamo eseguono di più gli ordini che vengono dati, quindi a far rispettare le regole da parte dei detenuti, mentre diciamo che l'ispettore è una figura un po' intermedia tra la base e il comandante, e comunque diciamo, il regolamento dice che ha mansioni di concetto ed in pratica ha delle responsabilità maggiori, innanzitutto anche perché gli ispettori sono responsabili di unità operative, quindi di reparti detentivi, tipo ad esempio io sono responsabile di un reparto e quindi gestisco circa 180 detenuti, che potrebbe essere quasi un piccolo istituto penitenziario, e gestisco anche molte persone di polizia penitenziaria, infatti con me lavorano circa 22 agenti. E quindi mi occupo sia della gestione del personale, quindi delle ferie, licenze e quant'altro, quindi tutti gli aspetti che riguardano il proprio personale di polizia penitenziaria, ma mi occupo anche della gestione dei detenuti che sono appunto nel mio reparto, e che attualmente ho una squadra di rugby anche che gestisco, che è ubicata al primo D, e il polo universitario regionale anche, di cui diciamo sono molto orgoglioso, soprattutto della squadra di rugby, che in quanto hanno giocato un campionato, quindi insomma, sono anche molto bravi, Giallo Dozza. Okay. Quest'anno diciamo siamo stati un po' bloccati, però speriamo che ad ottobre insomma ricominci il campionato. E avete appena ascoltato l'ispettore Antonio Molinaro della Casa Circondariale Rocco D'Amato di Bologna. Ci saranno altre pillole a seguire a questa, perché è stata per l'appunto un'intervista molto ricca. Se avete dubbi, domande, scriveteci in redazione liberidentro@gmail.com oppure Chiesa Santissima Annunziata, via San Romolo 2, 40136 Bologna, per ogni richiesta scritta. E non esitate anche a contattarci sui social per qualsiasi ulteriore richiesta. Alla prossima. E anche per oggi il buongiorno finisce qui, perché continuano le nostre trasmissioni con la rubrica Fare Università in Carcere, che alla quale seguirà un reportage dall'Elba. E guardatele perché sono molto interessanti. Intanto vi saluto, un grazie a tutti voi per averci seguito e un saluto dalla redazione, da Antonella Cortese, Caterina Bombarda, Ignazio De Francesco e Enea Flacco. A domani. Liberi Dentro e Duradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.